sullo psichico pesa una tara antica in grazia della quale tutto ciò che lo concerne può anche appartenere al regno dell'occulto. È così che una rivista di scienze psicologiche spesso può averci poco a che fare con le scienze, oggi come ieri. A San Pietroburgo nel 1884 veniva pubblicata una rivista di scienze psicologiche che già nel titolo preludeva al proprio programma, a dire il vero, perché si chiamava Rebus. Sul numero 26 del 1 luglio un certo signor Solovyov firmava da Parigi una lettera alla redazione e più o meno, lasciatemela riassumere, diceva quanto segue. Era transitata dalla capitale francese Elena Petrovna Blavatsky, la ben nota fondatrice della società teosofica. E lui, Solovyov, aveva avuto la fortuna di trovarsi con altri ammiratori e curiosi proprio a casa sua, allorché alle 10 del mattino giunse un postino recapitando una lettera per una parente di Madame Blavatsky. Questa parente al momento non c'era e la lettera sarebbe rimasta sul tavolo dove era stata posata se la sorella di Madame non l'avesse sfidata a indovinare quale messaggio la lettera potesse contenere. Vuoi perché della privacy a quel tempo ci se ne fregava bellamente, e vuoi perché diffusa era la consapevolezza che nessuna privacy all'occultista che sa il proprio mestiere può resistere, e vuoi perché il mittente era un altro parente stretto, la Blavatsky accettò prontamente la sfida. Tutti i presenti poterono quindi preliminarmente constatare che la lettera risultava spedita da Odessa e che il sigillo era intatto. Poi la busta finì in mano alla Blavatsky, che fece esattamente quanto segue. Se la pose sulla fronte e con visibili sforzi, racconta Solovyov, si mise a leggerla scrivendo su un foglio di carta le frasi che pronunciava. Speso che ebbe il meglio delle proprie energie nervose, tuttavia la celebre occultista si trovò a dover fronteggiare l'astuta sorella, la quale davanti a tutti dichiarò che molte delle espressioni riferite dalla sorella avevano molte probabilità di essere effettivamente usate dal mittente. Conoscendo il mittente e pure il destinatario, insomma, il senso del messaggio era presumibile. La Blavatsky a questo punto si irritò e aggiunse quel tocco in più che per il bravo occultista è come la chiave per la serratura dopo averla oliata ben bene. Riprese il suo foglio e, riconcentrandosi con sforzi sovrumani, sottolineò alcune parole con una matita rossa, affermando faticosamente che il segno da lei fatto sotto le parole sarebbe passato dentro la lettera, sotto le medesime parole. Mi immagino il mormorio di stupore, ammirazione, morbosa curiosità, l'attesa trepida e infine la solenne apertura della busta. Se tutto fosse andato storto, è presumibile che il biografo di Elena Petrovna Blavatsky non ce l'avrebbe raccontato, o più probabilmente non ci sarebbe stato alcun biografo di Elena Petrovna Blavatsky, ma ovviamente tutto andò per il meglio. Parole e sottolineature erano al loro posto. Le basi e le casse della società teosofica si irrobustirono, mentre Solovyov, il testimone che racconta ai propri compatrioti le meraviglie di Parigi e le glorie dei connazionali fuori di patria, può concludere dicendo che lui ha osservato scrupolosamente tutte le circostanze nei minimi dettagli e che dunque non ha alcun dubbio che quel fenomeno sia autentico e reale. Punto. Sembrerebbe che i cittadini di Cogne e i cittadini non di Cogne in questi giorni siano preda di inquietudini angosciate perfettamente simmetriche. I cittadini di Cogne dicono che da quel mercoledì 30 gennaio in cui il piccolo Samuele è stato trovato morto nel letto dei genitori, i cittadini non di Cogne a Cogne non si fanno più vedere. I cittadini non di Cogne, d'altra parte, dicono che, per esempio, ad una trasmissione televisiva come Porta a Porta, espressamente dedicata al loro caso, i cittadini di Cogne non si sono fatti vedere. Intervistatrice e sindaco, proprio perché istituzionalmente non se ne può fare a meno, intervistatrice e sindaco, e piazza rigorosamente vuota. Elisabetta Rosaspina sul Corriere della Sera del 6 febbraio si chiede se si sia trattato di pudore, rancore oppure adesione compatta ad un tacito boicottaggio. Si guarda bene dal rispondersi e, già che c'è, inaugura una nuova fase della linguistica politicamente corretta, dicendo che in piazza non c'era nemmeno il tonto del villaggio. Chissà come ne sarà stato contento lo scemo del villaggio. Da ciò, ancora una volta, apprendiamo cosa davvero offende un Dio moderno: la negligenza turistica e la riottosità a prestare corpo e anima, più corpo che anima, allo spettacolo televisivo. Fino ad ora di cosa sia capitato al piccolo Samuele si sa fin troppo e troppo poco. Fin troppo si sa che il bambino è morto. Fin troppo poco come e perché. Come tutti, mi sono anch'io lasciato trascinare dal gioco, diciamo acutamente amaro, delle ipotesi. Ma fra le tante formulate, mai avrei pensato a quella che, dopo una settimana di indagini, la stampa o i servizi investigativi per lei hanno ritenuto opportuno escludere. Nessun rito satanico, ci hanno garantito. E ce l'hanno garantito come se la notizia dovesse rassicurarci, rasserenarci. Come le excusatio, anche i conforti non richiesti dovrebbero indurci al sospetto. Nell'escludere che la morte del piccolo sia dovuta all'esecuzione di un rito satanico, c'è l'implicito assunto che sarebbe dovere sociale prendere in considerazione innanzitutto l'ipotesi più benevola nei confronti della società stessa, cioè l'ipotesi che prevede una distanza abissale, come fra paradiso e inferno, fra i probi cittadini recitanti la normalità e il reprobo assassino manovrato da oscure e irrefrenabili forze del male. Con tanta gravità, con tutta serietà di sguardi e soppesamento di parole, a notte fonda gli psicodotti che fatturano in diretta proporzione al numero dei delitti irrisolti, discettano con Bruno Vespa. È possibile, dice uno, che qualcuno abbia voluto aprire il terzo occhio al bambino. Gli altri assentono. Elena Petrovna Blavatsky, dunque, colpisce ancora, ma con una differenza a suo favore. Nei cosiddetti veicoli astrali di cui parlano le arcane dottrine, l'organo della vista risiederebbe in mezzo alla fronte. Chi, come la Blavatsky, vuole usarlo non ha che da appoggiare sulla fronte un oggetto sufficientemente opaco perché, come ad un'applicazione di raggi X, sveli immediatamente il suo interno nascosto. Si parla del risveglio di questa vista astrale come dell'apertura del terzo occhio, e non sono mancati i fantapaleontropologi che nel ciclope accecato da Ulisse abbiano individuato un residuo particolarmente malmesso degli antichi abitanti di Atlantide. In costoro la vista astrale sarebbe stato un dono di natura, gradualmente poi corrottosi in omaggio alla debolezza dei tempi e alla visione stereoscopica. È evidente allora che gli straparlanti straparlano di terzo occhio in quanto facoltà spirituale, a differenza degli psicodotti che straparlano più degli straparlanti, perché straparlano del terzo occhio come organo fisico. Non è evidente, non è evidente invece, non è evidente a costoro che nel formulare ipotesi e nel raccontarle pubblicamente si assumono una responsabilità invero pesante, perché è loro tramite che si caratterizzeranno i prossimi eventi. Suggeritori in un palcoscenico ancora sgombro di dramma e di attori, è straparlando di sette sataniche e di terzi occhi che scelleratamente ordiscono le trame dei lutti futuri. Non posso dire che uno è malato perché ha peccato, dice l'arcivescovo presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum et Pancreas Duo, glossando il messaggio quaresimale del Papa. Non posso dire che uno è malato perché ha peccato, ma nella storia della salvezza la malattia è conseguenza del peccato. Non può dirlo, ma lo dice. Prima ci fanno ammalare dandoci carne infetta per lucrare di più. Poi mettono una tassa, un tanto di schifezzeuro al chilo, sulla stessa carne per studiare le forme più opportune di sicurezza alimentare. È così che al contempo vengono fatte valere le ragioni del governo e quelle dell'arcivescovo. Si parla, non a caso, di peccati della carne. Le tessere del mio partito, dice Berlusconi, non sono tessere false. Ci mancherebbe. Sono tessere vere, ma qualcuno non sapeva di averle. Tutto qui. Come Solovyov, Berlusconi può giurare sull'autenticità e sulla verità del fenomeno. Peccato che in discussione ci sia tutt'altro. Da una parte l'autore della lettera o l'autenticità del postino, dall'altra l'ipostasi di un popolo plaudente che forse farebbe carte false pur di far parte del partito di governo, ma che di certo ha trovato chi queste carte false le ha già fatte per lui.